Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio, una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Le polizze RC Auto finiscono di nuovo nel mirino dell'antitrust. Antonio Catricalà, il presidente dell'Autorità per la concorrenza e il mercato, nel corso di un'audizione al Senato la settimana scorsa, ha sottolineato che si continuano a registrare sensibili incrementi dei premi, specie per determinate categorie di utenti, di automobilisti e quindi anche di veicoli. Secondo le rilevazioni di Eurostat, che è l'organismo di statistica europeo, praticamente l'Istat di Bruxelles, ha dichiarato Catricalà, nel periodo giugno 2009-giugno 2010 ci sarebbe stata una variazione della tariffa media per l'Italia, una variazione positiva, quindi un incremento del 7,7% a fronte di una media dell'area euro del 5,4%, confermando così il differenziale che già esiste, che già viene denunciato da tempo rispetto agli altri paesi della moneta unica. Per la verità, Catricalà, nel corso della sua audizione al Senato, ha sollevato anche tanti problemi che rendono molto problematica la competizione nel paese nel settore RC auto, come per esempio i legami che ci sono fra le compagnie di assicurazione che ostacolano un efficace appunto competizione nel settore. E allora noi oggi ritorniamo su questo argomento, è un tema ricorrente a Salva Danaio sul quale non spegneremo mai il nostro riflettore, perché quella per l'RC auto è una voce di bilancio pesante nella spesa della famiglia. Basta avere un paio di auto e se ne vanno più di 1.000 euro in un anno, sono qualcosa come uno stipendio per tante persone, per cui potete capire quanto pesi questa voce appunto nel bilancio familiare. Allora noi oggi ritorniamo a rianalizzare la situazione. Credo di capire che rispetto a come stanno andando le cose molti suggerimenti per il risparmio non se ne possano dare ai nostri ascoltatori, se non quello di continuare ad utilizzare tutti i nuovi preventivatori di tariffe che ci sono sul mercato, a cominciare da quello istituzionale dell'ISVAP, ma in realtà sembra quasi una situazione che i consumatori sono destinati a subire anche in tutto il rivolo di polemiche poi che questo tema provoca, ma senza trovare appunto grandi soluzioni. Allora ritorniamo un po' a dibattere su questo stamattina con tutti gli attori del sistema, tutti o quasi tutti, molti sicuramente i più autorevoli. Saluto e ringrazio per essere ritornato da noi il dottor Vittorio Verdone, direttore auto, consumatori e distribuzione dell'ANIA, l'associazione appunto delle imprese di assicurazione. Dottor Verdone, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io naturalmente ho sotto gli occhi ancora una volta il vostro comunicato stampa, che non ha fatto seguito alle ultime dichiarazioni di Catricalà, ma ha fatto seguito all'iniziativa dell'antitrust presa a maggio di effettuare un nuovo monitoraggio sull'andamento delle tariffe appunto, e quindi ribadiremo un po' anche quelle che sono le difese dell'industria di settore. Marco Cecchini, direttore relazioni esterne e rapporti con le istituzioni dell'ISVAP, che invece è l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo. Cecchini, buongiorno e bentornato a Salva Danaio anche a lei. Buongiorno. A voi. Io Cecchini l'ultima volta invece l'avevo sentito proprio in concomitanza con la notizia dell'avvio dell'indagine sui prezzi sulle tariffe RC auto da parte dell'antitrust intorno a maggio, quindi da qualche tempo che non lo sentiamo, e naturalmente non potevamo farci mancare la voce delle associazioni dei consumatori. Francesco Avallone, vicepresidente di Federconsumatori, buongiorno. Buongiorno. Bentornato. Tra l'altro Federconsumatori insieme al Codacons ogni anno in vista della stagione autunnale elabora sempre una sorta di previsioni di spesa su quella che viene definita la stangata d'autunno per le famiglie, e avevano già questa associazione dei consumatori indicato la scorsa estate quanto sarebbero potute aumentare le tariffe per le RC auto, e quindi magari da Avallone ci faremo raccontare come stanno monitorando l'andamento di questo tipo di spesa e effettivamente in che misura si sono concretizzati, si hanno notato appunto questi aumenti. E poi la parola agli ascoltatori, come sempre, 800 24 00 24, il numero verde per voi, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Borse ampiamente positive stamattina stanno consolidando, anzi rafforzando, amplificando i rialzi già forti di ieri. Parigi oggi più nel 10%, Francoforte guadagna un punto, Londra guadagna un punto, Milano più 0,75%. La spinta arriva intanto dalla decisione presa ieri dalla Banca Centrale del Giappone di diminuire il costo del denaro ormai a zero, praticamente proprio a zero completo, e questa è stata vista come una mossa per raffreddare la corsa della divisa giapponese, quindi un altro intervento per riequilibrare l'andamento del mercato valutario, così come è stato interpretato anche l'atteggiamento, la dichiarazione della Cina che acquisterà bond europei anche in questo caso con la sua grande potenza, riequilibrerà in questa maniera con questa promessa il mercato obbligazionario, e quindi tutto questo è stato accolto ovviamente con favore dall'Eurozona. Ieri queste iniziative hanno trovato anche il plauso dei principali organismi di Bruxelles e quindi stamattina borse positive e valute anche positive, valute nel senso di euro che è tornata a rafforzarsi un po' sulle altre divise. Tutto questo sta continuando a comprimere il dollaro, ma in ogni caso oggi euro ai massimi da febbraio sul biglietto verde a 1,3864, forte anche sullo yen a 115,12. Milano stamattina punta soprattutto su Geox più 2,53, Saipem più 2, Italcementi più 1,66%, Pirelli e Tenaris in rialzo di 1,5%, Autogrill più 1,37%. Stanno andando bene anche i titoli energetici con il petrolio che è piuttosto forte. A proposito di materie prime, il petrolio è sugli $84 al barile, adesso vi do la quotazione corretta, ma stamattina ad Hong Kong abbiamo avuto anche il nuovo record assoluto dell'oro, $1,349,80 l'oncia. Ovviamente questa spinta sulle quotazioni delle materie prime arriva dal dollaro debole, è un circolo ormai stranoto che si sta confermando anche in questi giorni. Il petrolio era a New York a $82,5, a Londra a $84,7. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo a monitorare l'andamento delle tariffe RC Auto. Dopo i consumi alimentari, quelli domestici e le tariffe bancarie, si aggiunge alla lunga lista dei rincari di quest'autunno anche il settore dell'RC Auto. L'allarme arriva dall'antitrust, che riaccendendo ancora una volta il faro sul settore, segnala come tra giugno 2009 e lo stesso mese del 2010 l'aumento delle assicurazioni per l'auto in Italia sia del 7,7%, a fronte di una media europea del 5,4%. La causa? Per il presidente Antonio Catricalà va trovata nella mancanza di concorrenza del comparto, liberalizzato solo sulla carta. Non si è fatta attendere un eco dalle associazioni dei consumatori, che sottolineano come questa variazione vada ben oltre il dato dell'inflazione e tocchi tutte le categorie di automobilisti, in particolare quelli del Sud Italia e i neopatentati. Secondo Altro Consumo, l'assicurazione di un diciottenne in un anno è aumentata del 16% a Milano, del 18% a Roma, arrivando fino al più 24% di Palermo e al più 26% di Napoli. Si unisce al coro anche il Sindacato Nazionale degli Agenti di Assicurazione, secondo cui è necessario rinnovare la rete distributiva e incentivare lo sviluppo della figura più indipendente dell'agente plurimandatario, che può cioè presentare all'utenza polizze di più compagnie, agevolando la mobilità della clientela e la concorrenza. L'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici pone invece l'accento sui costi anomali che le imprese italiane devono sostenere. La frequenza dei sinistri nel nostro paese è il doppio di quella francese. Sono molte le microinvalidità permanenti non riconosciute nel resto d'Europa ed è inoltre inadeguato, secondo l'ANIA, il contrasto alle frodi e alle speculazioni. Ogni analisi, insomma, individua cause differenti e differenti soluzioni al problema. Un aumento dei costi che, come in un circolo vizioso, continua a crescere sotto gli occhi di tutti. E io pago, come direbbe Totò nel frattempo, in tutta questa discussione che cerca di mettere insieme tutte le motivazioni possibili ed immaginabili che appunto portano ad un aumento delle tariffe. Intanto i consumatori pagano inevitabilmente, insomma, un mercato che in ogni caso a quanto pare deve in qualche modo riequilibrarsi, però è un settore molto complesso. Allora io comincio col dottor Verdone, direttore auto, consumatori e distribuzione dell'ANIA, l'associazione appunto delle imprese di assicurazione. Quante volte lo abbiamo invitato a Salva Danaio su questo argomento e un po' ci ridiciamo, dottor Verdone, ovviamente non è una critica, è proprio una considerazione molto banale, le stesse cose, i problemi sono sempre gli stessi, ma in ogni caso c'è anche la crisi peraltro, che forse abbiamo indicato poco nell'ambito della nostra scheda, che ha portato anche alla necessità per le compagnie di assicurazione di riequilibrare in qualche maniera i conti. E allora come possiamo anche come industria di settore dare qualche rassicurazione ai consumatori? Ma vedete, i problemi purtroppo saranno sempre gli stessi se non si fanno degli interventi. Noi un anno fa lanciamo l'allarme che oggi poi va sui media, in radio, in televisione, sui giornali, per interventi che avvengono, diciamo, nel lagone politico. Scaricare sempre su prezzi, aumenti dei prezzi, il problema dell'RC Auto significa non voler risolvere il problema, forse costituisce anche un alibi politico, mi viene in mente, perché evidentemente trovare un colpevole significa non individuare mai chi sia la causa di questo che sta succedendo. Allora, quello che succede è esattamente questo, cioè che c'è un sistema che disperde risorse. I consumatori pagano di più in Italia rispetto agli altri paesi perché c'è una dispersione abnorme di risorse e c'è di danni che le compagnie pagano, perché le compagnie pagano 15 miliardi di euro all'anno di sinistri, di danni che le compagnie devono pagare anche nei casi in cui non dovrebbero pagare, e questo purtroppo è favorito da un sistema. Ora, io sono molto d'accordo su questo, la rassicurazione che possiamo dare ai consumatori è che sono partiti dei confronti molto tecnici, molto bene il tavolo tecnico con l'ISVAP che sentirà anche i consumatori, noi abbiamo un forum Mania Consumatori in cui sì, è partito un tavolo tecnico di confronto anche con i consumatori, ma il confronto deve essere allargato, il confronto deve essere allargato anche ai decisori, quindi la politica ci deve mettere il suo, ma soprattutto la magistratura. Perché qui stiamo parlando di una mole enorme di risorse e spiace che poi nelle audizioni il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato non vada a individuare le cause vere dei costi, per cui si limita a parlare di risarcimento diretto dei danni, di danni ai veicoli, di problematiche ai carrozzieri, quasi dimenticando che il 64% dei costi dei sinistri riguardano i danni alla persona. E 1.700.000 di questi danni alla persona sono relativi a una mole enorme di micro lesioni che non costituiscono lesioni vere, ma sono frutto di speculazioni. Quindi noi dobbiamo cominciare ad aggiornarci anche rispetto alle categorie professionali che agiscono intorno a questo mondo, cominciare a verificare per esempio questi numeri anomali, 210.000 avvocati, scusate, quando in Francia ce ne sono 44.000. Significa un rapporto di un avvocato per 283 abitanti, ma come credete che possano reggere, diciamo, professionisti di questo tipo se non hanno a disposizione questa che purtroppo per anni e continua a essere, se non si interviene, è stata una mucca da mungere. Allora, io vorrei andare anche all'ISVAP adesso, poi l'Associazione dei Consumatori la sento a questo punto nella seconda parte della trasmissione, perché in realtà, se non mi ricordo male, tra tutte le ragioni che l'ANIA ha sempre rivendicato, appunto proprio per ovviamente difendersi rispetto a tutte le accuse che piovono addosso alla categoria, l'ISVAP ha sempre invece abbastanza apertamente parlato proprio di seria difficoltà nelle strutture liquidative delle imprese di assicurazione, e questa sarebbe la ragione principale per le quali queste tariffe continuano ad aumentare, l'inefficienza proprio delle strutture liquidative. Mi ricordo male, Cecchini, e che cos'altro possiamo dire rispetto, appunto, in aggiunta a quello che ha detto anche Verdone fino a questo momento, certo, come organismo di controllo del settore? No, ti ricordi benissimo. Per noi il problema dell'efficienza del processo di liquidazione è un problema importante. Però diciamo non è l'unico, è una cosa che ci sta molto a cuore, ma è evidente che un fenomeno così complesso non può che avere ragioni molto varie e molto complesse. Quello che io vorrei dire, diciamo, dopo aver ascoltato il vostro servizio sulla audizione del Presidente Catricalà, che diciamo le cifre che sono state fornite sono sugli aumenti, sono cifre corrette. Però diciamo noi le abbiamo denunciate già nel giugno di quest'anno all'assemblea annuale. Però diciamo questo dal nostro punto di vista è il momento per passare dalle denunce, diciamo, alle proposte. E per questo diciamo noi abbiamo attivato, come ricordava Verdone, due tavoli tecnici, uno che ha già avuto un primo passaggio con il mondo delle imprese. Cosa vogliamo fare? Vogliamo ascoltare tutti, quindi ascoltare le imprese, ciò che abbiamo fatto alla fine di luglio, ascolteremo intorno alla metà di questo mese, abbiamo già diramato le convocazioni alle associazioni dei consumatori, raccogliamo le proposte e cerchiamo poi di arrivare a una sintesi per presentare alle autorità istituzionali, quindi al governo e al Parlamento, un pacchetto, diciamo, di 5-10 interventi fondamentali, quantificando anche l'impatto sulle tariffe e quindi sulla borsa, diciamo, della spesa dei cittadini che questi interventi potrebbero avere. Certo, allora, guardi, devo fermarmi perché abbiamo già la prima pausa, poi le faccio sicuramente completare il suo ragionamento, come poi sentiremo volentieri anche quello dell'Associazione dei Consumatori e sentiremo soprattutto poi le testimonianze degli ascoltatori che naturalmente, come dicevo prima, sono assolutamente interessati al dibattito, ma poi sono soprattutto quelli che si confrontano con l'assicuratore che bussa alla porta e va a chiedere chiaramente il pagamento della quota semestrale o annuale, e lì si nota invece il segno più in continuazione. 800 24 00 24, ancora per i vostri interventi, ritorniamo sull'RC Auto tra pochissimo. Allora, eccoci ritrovati a Salvadanaio, che oggi ritorna su un cavallo di battaglia, rimesso insieme un po' di ospiti che invita di frequente per discutere di questi argomenti. Il tema è la polizza RC auto, i costi continuano ad aumentare, l'oggetto è stato di nuovo al centro di una denuncia da parte del presidente dell'autorità garante del mercato, Antonio Catricalà, settimana scorsa di fronte ad un'audizione al Senato. L'antitrust ha avviato un'indagine per capire effettivamente che meccanismi distorsivi ci siano sul mercato e che portano a questo continuo incremento delle tariffe. L'ANIA naturalmente si difende, l'impresa, l'industria di categoria dice i prezzi RC auto sono alti in Italia perché i costi supportati dalle imprese di assicurazione sono abnormi, sono i più alti d'Europa, è un paese dove c'è una frequenza dei sinistri al di fuori di ogni controllo, c'è una legislazione che permette di considerare per esempio permanenti delle microinvalidità che in tutta Europa non sono considerate tali e naturalmente quindi l'industria deve sopportare degli oneri che altrove non deve sopportare. Le associazioni dei consumatori che cosa dicono? Tra l'altro, in attesa che si aprano tutti questi tavoli che riportino di nuovo anche in sede legislativa la necessità di rivedere un po' tutta la materia, tra l'altro sarà un lavoro enorme. Francesco Avallone, vicepresidente di Federconsumatori, voi come sempre in estate fate le vostre previsioni su quella che potrebbe essere la stangata d'autunno a carico delle famiglie, l'RC auto era una delle voci che effettivamente quest'estate avevate già evidenziato. Notate, lo notano tutti perché l'ha detto Catricalà, voi che tipo di incrementi state notando e a carico soprattutto di che tipo di assicurato, automobilista, insomma, di figura, di soggetto? Sì, noi dobbiamo ringraziare l'antitrust, perché se non intervenisse l'antitrust ogni tanto le nostre voci cadrebbero nel vuoto, perché noi ormai sono anni che denunciamo questa situazione. Ma la cosa è incredibile, noi stiamo partendo con questi tavoli, per carità ci andremo con la voglia di risolvere i problemi che però si conoscono, cioè noi non è che stiamo oggi approntando il problema perché all'improvviso sono esplosi le tariffe. Sì, il problema è che l'ISVAP e le compagnie sono i protagonisti di questa situazione. Poi c'è il legislatore, lo sappiamo, che è in ritardo, che non ha anzi, quelle poche leggi sembra sempre che le rendano poi vani tentativi di portare a casa dei risultati. Il problema è che ci troviamo di fronte a un mercato anelastico, cioè la domanda è bloccata, nel senso che c'è l'assicurazione obbligatoria e quindi 43 milioni stanno lì a pagare la polizza, e purtroppo c'è un prodotto come quello del auto. Guardi Avallone, io la sento malissimo, dovremmo tentare di recuperare un attimo questa telefonata perché abbiamo resistito fino ad ora, ma la qualità è davvero pessima. Curioso tra l'altro il sinonimo trovato al concetto di mercato rigido, anelastico, detto Avallone, davvero interessante. Però insomma il problema è anche questo. Adesso io allora vorrei arricchire la nostra considerazione con alcuni casi di alcuni ascoltatori. Devo dire che rispetto anche all'ultima volta in cui ci siamo occupati di questo argomento, in cui tutti lamentavano effettivamente un incremento costante delle tariffe e anche una rigidità nel comportamento, perché noi facciamo fatica a cercare qualcosa di meglio sul mercato, lo abbiamo detto tante volte, siamo molto amici del nostro assicuratore di fiducia, quello che magari ha servito per tutta la vita anche i nostri genitori, e invece forse qualcosa si sta muovendo, sta un po' cambiando anche nelle attitudini, nel comportamento dei consumatori, forse anche stimolati dal continuo dibattito che c'è su questi temi, alla fine forse qualche risultato lo si ottiene. Allora sentiamo un paio di ascoltatori per poi tornare al nostro giro di chiacchierata con Vittorio Verdone, Marco Cecchini e Francesco Avallone, due ascoltatori di Pistoia peraltro vedo. Cominciamo con Nicola, che è un assicuratore. Nicola? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, allora io ho piacere di portare anche la visione non solo di consumatore ma in questo caso di intermediario di assicurazione, perché su un argomento così complesso ritengo che anche la voce degli intermediari sia importante, perché noi intermediari rilevavamo prima di tutto una attribuzione dei premi abbastanza indifferenziata, tanto il cliente virtuoso, tanto quello che virtuoso non è, spesso subiscono troppo un concetto di mutualità a scapito del personaggio onesto, e questo la prima cosa. Gli argomenti da dire sarebbero molti. Prima cosa, ognuno in questo, nel sistema assicurativo, deve fare la sua parte, quindi lo Stato, ricordiamoci, fra Servizio Sanitario Nazionale e imposte incide al 25%, e lo mettiamo da parte. Dall'altra parte le imprese possono fare di più, ritornando sui territori, prima di tutto privilegiando quegli intermediari che conoscono i clienti, che quindi possono distinguere tra virtuosi e meno, e quando noi ci serviamo di meccanismi centralizzati questo contatto col territorio sparisce. Si perde. Dall'altra parte deve colpire quelli che sono i clienti meno virtuosi, troppo spesso assistiamo a truffe che spesso non hanno un proseguimento. Poi si crea un altro problema però, Nicola, come per esempio il fatto che in tanti territori del sud le compagnie si rifiutano di contrarre, ci vanno di mezzo anche le persone che non c'entrano nulla, quindi sa com'è, anche queste soluzioni drastiche a volte non è che portino proprio i risultati sperati. Le volevo fare un'altra domanda, Nicola, visto che lei è un assicuratore, mi chiedo a quanti clienti ha dovuto dare la cattiva notizia che la prossima polizza da pagare avrebbe subito un incremento? Praticamente a quasi tutti. Tutti. E in che misura, Nicola? Dal 5 al 15%. Parlo di clienti che non hanno avuto sinistri. Certo. Quanto margine di trattativa può concedere lei ad un suo cliente? Nel senso che in ogni caso molto spesso ci si prova, un cliente va dal proprio assicuratore e gli dice: guarda, io ho trovato per esempio la polizza online che è molto più conveniente, quindi ti saluto e ti abbandono. Lei ha la capacità, il margine di manovra per poter permettersi uno sconto da praticare al suo cliente? Io ho clienti intanto che apprezzano, se la differenza non è rilevante, la possibilità di avere un contatto fisico, certo, con una persona che riteniamo professionalmente qualificata. Dall'altra parte le compagnie danno dei margini, o quando non ne danno, come in parte nel mio caso, con il plurimandato che al momento è possibile, io riesco a dare un'offerta altrettanto qualitativa, certo, ma anche economicamente soddisfacente per il mio cliente, Nicola, che mantengo in agenzia. La ringrazio molto per la sua testimonianza. Volevo tornare a Vittorio Verdone. E allora, le piace il suggerimento che l'assicuratore che ci ha interpellato ci forniva. È possibile che le compagnie di assicurazione però possano praticare una strada di maggiori riconoscimenti comunque agli assicurati del tutto virtuosi? È così difficile individuarli, Verdone, e premiarli? Guardi, le tariffe tecniche, che poi non sono il prezzo finale, perché noi stiamo parlando sempre di incrementi, si riferiscono ai prezzi di listino, poi dall'ultimi dati dell'ISVAP, la semestrale raccolta premi sull'RC auto, abbiamo verificato quello che verifichiamo da anni, cioè che c'è una distanza tra quanto viene misurato a livello di prezzo di listino e quanto effettivamente la spesa sostenuta. L'ISVAP nel semestre, primo semestre 2010, rilevava che l'aumento dei premi raccolti, che vuol dire la spesa della collettività, è stato del 2,5%. Ma volevo ritornare al collega di Pistoia, perché lui faceva riferimento al territorio e alla necessità che con la sua compagnia, probabilmente mandataria, mandante principale, deve comunicare notizie d'aumenti. Pistoia, solo per fare un riferimento al territorio, è una delle province che si colloca oltre la media per due indicatori fondamentali nell'RC auto: la frequenza dei sinistri, che è intorno al 10%, la media italiana è l'8,6%, ma soprattutto, e qui è proprio il cuore del problema su cui bisogna fare un'azione di igiene nazionale, un disboscamento, ha il 30% di incidenza di danni fisici. La media italiana, che è già alta, una media fuori qualsiasi, fuori controllo, mi stava per dire fuori della grazia di Dio, scusate, è del 30% a Pistoia, la media italiana è del 21%. Questi sono i problemi che vanno affrontati, perché se noi poi facciamo discorsi generali sulla mutualità, che deve essere più ampia, come spesso chiedono i consumatori, guardate che le tariffe delle compagnie di assicurazione prevedono già una mutualità ampia. Adesso in alcune zone sono stati fatti degli interventi di tariffazione tecnica, cioè si è andati molto vicini a quello che è il premio puro, e cioè quanto costano quei profili di rischio alla compagnia di assicurazione. Questo è stato necessario perché c'è uno squilibrio notevole sui conti delle compagnie. Per poter continuare ad adempiere all'obbligo a contrarre le compagnie, non si possono rifiutare di stipulare contratti con chi chiede l'assicurazione obbligatoria del RC auto, però non possono sicuramente andare a stipulare contratti a prezzi sotto costo, perché un'impresa di assicurazione, se fallisce, procura danni alla collettività, è un'attività vigilata, non è che è come una fabbrica che poi, voglio dire, sì, ha dei costi sociali di un certo tipo, i dipendenti, vogliamo parlarne sicuramente. No, la compagnia di assicurazione non può fallire. Ci sono stati casi di fallimenti, ma se li ha addossati la collettività. Va bene, sì, Verdone, ci dobbiamo fermare. Mi ha incuriosito molto questo caso di Pistoia, e siccome casualmente avevamo già in lizza un altro ascoltatore che ci chiama proprio da quella provincia, io vorrei interpellarlo per capire, insomma, se davvero ci si prova sempre, in ogni caso, con la compagnia di assicurazione ad ottenere qualcosa di più rispetto a quello a cui si ha diritto, se si è involontari protagonisti, ovviamente, e malcapitati protagonisti di un incidente. Giulio, buongiorno. Ha sentito cosa diceva Verdone dell'Ania sulla vostra provincia? Siete così furbetti davvero? Senta, io se sono furbetti non lo so. Io so soltanto che da 13 anni ho la solita macchina e da 13 anni ho un attestato di rischio limpido, cioè non c'è un segno superiore allo zero, e io ogni anno in qualche maniera qualcosina di più pago. Ora, quest'anno ho pagato 48 euro. Lasciamo perdere ogni commento sull'aumento, perché, per carità, lasciamo perdere davvero. Il problema è un altro. Io non riesco a capire quali sono i criteri con cui si crea il prezzo. Esatto. Perché ho fatto fare altri due preventivi da altre due compagnie. Una mi ha chiesto 100 euro di più e un'altra, per la stessa autovettura, 60 euro di più. In più. Senta Giulio, il canale è sempre quello, è un assicuratore al quale si rivolge, ha utilizzato anche il canale online, per esempio, quindi la compagnia cosiddetta diretta, che elimina ovviamente. Sì, il canale online ho cercato di utilizzarlo l'anno scorso, ma ho visto che erano molto più care, no? Non so, ecco, non capisco, io se posso dire anche che macchina è. No, vabbè, non è mica una parolaccia, Giulio, proviamoci, adesso vediamo. Faccio fare all'ISVAP subito un preventivo sul tuo preventivatore, appunto, dell'autorità, quindi... No, ma in ogni caso il tema è, Giulio, che lei tentativi per risparmiare li ha praticati, è un automobilista assolutamente virtuoso, forse paga quello che Verdone ci raccontava, cioè che comunque vive in una provincia problematica, evidentemente forse si scaricano anche sui costi di lei, automobilista virtuoso, altre situazioni. Ci dobbiamo fermare, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, la puntata praticamente sta già terminando, ma devo ritornare anche ad Avallone e Cecchini per completare un po' anche le nostre considerazioni, tra poco. Francesco Avallone, siamo riusciti a recuperarla, mi faccia sentire un po' la qualità della telefonata, qual è adesso? Mi scuso. No, ma ci mancherebbe, sta come il telefono. In un posto a Udine. Sì, sì. Ah, ecco qua. Allora, ha sentito un po' come abbiamo portato avanti il dibattito fino a questo momento? Pistoia, città di terribilini al volante, ma non solo, anche nel comportamento. Mi chiedo, visto che comunque c'è chi si è svegliato negli ultimi anni e le cerca le soluzioni per risparmiare un po', mi chiedo quali siano oggi le indicazioni pratiche che le associazioni dei consumatori danno, oltre ovviamente a cercare di fare, attraverso tutti i preventivatori che ci sono sul mercato in questo momento, di utilizzare ovviamente questi canali. Come si fa a risparmiare sull'RC Auto, Avallone? Intanto, se dobbiamo dare veramente un grazie all'antitrust, perché senza questi richiami dalla parte dell'antitrust le cose andrebbero avanti da anni non si riesce a risolvere il problema. Benissimo, andiamo alla concretezza. I complimenti a Catrica Laghi, l'abbiamo fatti un sacco di volte. Sì, però il fatto è questo, che adesso ci sediamo ai tavoli e dobbiamo portare delle idee, perché se non si portano delle idee non si va da nessuna parte. Il problema vero è che le compagnie e l'ISVAP sono dei soggetti che hanno operato in tutti questi anni. Quindi, se siamo in questa situazione, non è che è sempre il destino cinecobaro che fa scoppiare l'aumento delle tariffe. Se si abbandonano le zone, se si opera anche sulla clientela sana, la clientela che non fa mai incidenti, si fanno le disdette, disamorano anche chi effettivamente si comporta bene. Quindi lei condivide quello che diceva l'assicuratore? È una strada che può essere perseguita, intanto premiare i virtuosi e penalizzare tutti gli altri? Assolutamente, no. Rifare anche tutto il sistema della regionalizzazione delle tariffe, della personalizzazione, perché è chiaro che un utente napoletano che vive in una città dove la sinistrosità è molto alta e non fa sinistri va premiato molto di più di uno che sta a Perugia dove la sinistrosità è molto più bassa. Benissimo, però sappiamo molto spesso anche a Vallone quanto queste riorganizzazioni massicce e radicali poi costino ai soggetti che le devono fare. Le faccio un caso: le banche che si devono adeguare a Basilea, e sappiamo già che tutti i costi che il sistema bancario dovrà sostenere li scaricheranno sui consumatori, perché questo l'hanno detto anche loro. Ma rivoluzioni così radicali non sono esattamente. È vero, perché si possono creare dei risparmi per le stesse compagnie se facessero realmente concorrenza tra loro, se curassero la liquidazione dei sinistri in modo più adeguato, perché è facile scaricare le proprie inefficienze sulla tariffa. Si è fatta sempre una politica delle tariffe. Oggi, se dobbiamo spendere dei soldi per abbassare le tariffe, probabilmente non conviene, perché a questo punto la tariffa è libera, quindi si può aumentarla in qualsiasi momento, aumentano i sinistri e aumenta la tariffa. Non è che si va alla causa perché aumentano i sinistri, si lasciano studi legali che imperversano in tutta Italia, medici legali che ne fanno di tutti i colori sulle valutazioni, sulle relazioni medico-legali, e questo è il problema. Allora, abbiamo visto che battaglie che hanno fatto anche per rivendicare il loro ruolo quando c'è stata tutta la grande discussione sull'introduzione del meccanismo dell'indennizzo diretto. D'altronde sono delle professionalità che perdono un business enorme e quindi è evidente che hanno anche alzato la testa. Prima di ritornare, ho interrotto di nuovo a Vallone, ma ci sono due ascoltatori, c'è Marco Cecchini che deve di nuovo necessariamente parlare, l'ISVAP. Vorrei sentire Paolo da Milano e poi anche Fabio da Rimini. Paolo, buongiorno, rapidissimo, se ce la fa così diamo un bel contributo. Due testimonianze veloci. Una, che ho un'assicurazione online, l'anno scorso, pur avendo fatto un incidente, quindi dovendo scendere di due classi anziché salire di una, cambiando dei parametri, che faccio meno chilometri, l'assicurazione mi è scesa addirittura rispetto all'anno scorso. E si può fare questo, Paolo? Come? Si può fare questo? Cioè, voglio dire. Vabbè, la migliore che c'è online la sanno tutti. No, si può fare, nel senso che lei ha cambiato dei parametri. Sì, perché anziché fare 25 km e 1000 all'anno ne faccio 4000 e lei fa la moglie. Cambiando questi parametri mi chiede l'assicurazione. E poi un'altra testimonianza, sempre la moglie aveva preso la macchina nuova, rottamato l'altra, è passata da 450 euro a 900 euro, no? Sempre con la stessa cilindrata. Questo alle 10 del mattino. Alle 11, dopo avergli detto che cambiavo, ho fatto l'assicurazione a 600 euro. Mi sembra come quando si va sul last minute e si cerca un volo per partire, a seconda dell'orario del giorno in cui lo si cerca si può trovare la tariffa migliore. Però, per carità, Paolo, lei ha ottenuto un risultato enorme ed è giusto che possa risparmiare su questa voce. Però, Marco Cecchini, quello che ci ha raccontato Paolo, mi sembra anche insomma un indice di un funzionamento non troppo corretto anche del sistema. Che cosa vuol dire che da un'ora all'altra, a seconda dei parametri che si inseriscono, non è mica un terno all'otto, la mia vita è sempre la stessa, devo essere anche assicurato nella maniera migliore possibile, cioè l'assicurazione deve anche rappresentarmi al meglio, credo. Che cosa ne dice rispetto a quello che ci ha raccontato l'ascoltatore? Allora, in ipersintesi, noi non vorremmo essere costretti a infliggere 60 milioni di euro di sanzioni annue alle imprese, e di questi 60 milioni di sanzioni annue alle imprese molto è rappresentato proprio da problemi legati alla liquidazione dei sinistri. Non vorremmo ricevere circa 30.000 reclami di utenti diciamo all'anno che si lamentano delle imprese, però questi io sono credo, i numeri che vi, no, che vi arrivano, però, ecco. Voglio dire, io credo che, siccome tu hai esordito dicendo ci diciamo sempre le stesse cose, io volevo dire qualcosa di diverso. Premesso che spero che a Vallone venga al tavolo ISVAP con uno spirito un po' più costruttivo, vorrei dare due notizie. Una, come nelle tradizioni, cattiva, e una buona. La notizia cattiva, che spiega l'urgenza del problema, è che la contraffazione dei tagliandi assicurativi è in fortissimo aumento. Bene, e noi lo vediamo. Aggiungiamo ancora qualcos'altro, una pentola già piena. Però c'è anche la notizia buona. La seconda notizia, che è sempre dell'ambito della notizia cattiva, è che noi abbiamo aperto, ma questo è già stato annunciato dal presidente Giannini, non do una grande novità, una istruttoria per verificare se ci sono integrate ipotesi da parte di alcune imprese di violazione dell'obbligo a fornire l'assicurazione. Quindi una sorta di violazione di un obbligo di legge. La notizia buona è che, perché bisogna tutti avere uno spirito un pochino anche positivo, perché altrimenti finiamo per non fare nulla, è la seguente. L'ISVAP ha fatto il preventivatore che serve ad aumentare la mobilità dei consumatori. Esatto, come sta andando Cecchini? Sta andando bene, ci sono circa 17.000 preventivi in mese. Il presidente Catricalà ha riconosciuto che è uno strumento importante ed ha ammesso che la mobilità dei consumatori è, seppur di poco rispetto ai trend e agli standard di altri paesi, è aumentata anche in Italia, arrivando quasi al 10%. Ci conforta. La seconda cosa è che noi metteremo adesso a disposizione delle imprese uno strumento che è la nostra banca dati sinistri ristrutturata, che non è una banca dati, è uno strumento di rilevazione delle frodi, uno strumento molto potente. No, tra l'altro allora, va ricordato anche che l'ANIA sta sollecitando. No, perché volevo ricordare che l'ANIA chiede l'agenzia pubblica per il contrasto delle frodi da anni. Adesso, quindi adesso l'agenzia, questo è lo strumento, poi diciamo. Questo è lo strumento, è uno strumento, vi assicuro, molto potente. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se si vuole, si può, nel senso che se le frodi, se la sinistrosità, sono uno degli elementi, diciamo, che aumentano il livello della tariffa, noi abbiamo a disposizione adesso uno strumento. Certo, occorre che le imprese facciano, come si suol dire, la loro parte, e cioè che poi, alla fine, una volta che hanno questo strumento a disposizione e vedono le ricorrenze, le frodi, i casi dove si può andare, poi non, come dire, chiudano la pratica per quieto vivere e poi facciano pagare a qualcun altro il costo di questo, di questa generosità. Benissimo, diciamo. Insomma, allora la mappa delle frodi deve essere assolutamente disegnata nel nostro paese, questo forse è l'intervento più importante che va fatto. Io ho due minuti ce li ho, sentirei un altro ascoltatore e poi magari per concludere anche con Verdone. Fabio da Rimini, buongiorno, rapidissimo se ce la fa. Sì, buongiorno. Senta, io sono un intermediario di assicurazione e volevo dire soltanto un paio di cose, ma purtroppo il tempo è pochissimo. Le compagnie di assicurazione, se adottassero il discorso della tecnologia, cioè di installare satellitare all'interno della macchina, potrebbero evitare tante truffe che ci sono con tutti gli avvocati che sono sparpagliati per tutto il territorio. E poi l'altra cosa che volevo fare è che le persone devono fare veramente attenzione non soltanto ai preventivatori e quindi fare coperture assicurative con la compagnia online, perché ci sono tante garanzie aggiuntive che devono essere applicate all'assicurazione auto che non vengono messe nelle compagnie telefoniche. Fabio, l'abbiamo già fatto tra l'altro questo argomento invitando proprio ai nostri microfoni il presidente dello SNAC e il sindacato degli agenti di assicurazione, che ha sollevato questo grande tema di recente proprio presentando un'inchiesta a Roma. Adesso non la ricordo perché non abbiamo tempo, per cui anche questa è sicuramente un'istanza che l'industria e tutto il settore prenderà in considerazione. Verdone, io ho 30 secondi di tempo prima di concludere. Allora, secondo lei, che cosa bisogna spingere intanto per far partire questa agenzia pubblica per il contrasto delle frodi, che mi sembra una delle voci più importanti? Di legge noi faremo le nostre proposte concrete, perché l'antifrode si fa sicuramente con le banche dati, ma anche a valle con gli strumenti della giustizia, cioè poi si deve andare in causa con querele penali e i giudici devono giudicare. Ma vorrei dire in flash, concorrenza secondo noi esiste, la telefonata di prima lo testimonia. Non si può lamentare poi che ci siano assenze di concorrenza e contemporaneamente troppa concorrenza. La concorrenza però non può risolvere tutto, non può risolvere i problemi che abbiamo detto prima. Noi abbiamo presentato anche noi le nostre proposte ormai da anni, sono 5 punti, vi ricordo: l'agenzia antifrode è assolutamente necessaria, ridurre le lesioni fisiche che non esistono. Infatti, un po' meno collari, ecco. Anche sulla tabella. Rapidissimo, devo salutare. La tabella dei danni gravi alla persona, soprattutto rivedere i guasti fatti dalla legislazione definita liberalizzazione, lenzuolata, in realtà è la coperta corta che si tira da una parte e rimane scoperta l'altra, del bonus malus. Esatto. E tanti guasti ha creato. Grazie. Regole matematiche. Grazie Vittorio Verdone, Marco Cecchini, Francesca Valloni, monitoreremo ancora questo settore, ci diverte così tanto farlo. Domani.